Pronto, buongiorno. Buongiorno, come va? Buongiorno, va bene, siamo già in diretta anche su live stream online e stiamo anche registrando, quindi buongiorno, benvenuto a questo secondo episodio del Mastermind Podcast, l'abbiamo chiamato poi alla fine, giusto? Mastermind, podcast, Mastermind Podcast racconta storie, esatto, perfetto. Senti, ti sento che c'hai l'auricolare? Ti sento un po'. Aspetta. Ah, ok. Mi sentite bene, però mi sento bene Sì, abbastanza bene, diciamo. tu? Bene, bene. Ho appena finito un'intervista a Radio Impegno, la quale ho iniziato mezzanotte e adesso mi fa le 6. Quindi ho Wow. fatto adesso la crisi Chiara Pavoni nella fermata dell'autobus qui a Cornelia e niente, non vedo l'ora di ascoltarti, di parlare con te, raccontarti un Neanch'io. po' come è andata la serata. È stata una settimana intensa. Poi dal primo episodio abbiamo anche parlato molto io e te, quindi insomma c'è molto da fare. Niente, visto che la mattina è già partita per me da pochissimo, da un'oretta, per te da 6 ore, se ci vuoi, insomma, cosa sei stata a fare? Perché poi alla fine me l'hai detto, ma me l'hai detto molto velocemente. Cosa sono state queste 6 ore di notte in radio? Che hai fatto? Racconto, racconti. Praticamente questa è una radio che lavora molto nel sociale, ecco perché si chiama Radio Impegno. Radio Impegno, adesso me lo scrivo così lo Radio metto. Impegno, Radio sì. Impegno. E quando presenti tu hai il musicista Giancarlo Nicci, l'attrice Chiara Pavoni e io. Tutti e tre abbiamo lavorato per fare l'audiolibro del Volo del Colibrì, ci hanno invitato per raccontarci un po' la nostra storia, no? Come nasce questo libro, questa collaborazione. 6 ore sono state belle impegnative, Mamma mia, sei grazie ore. a Giancarlo Amici che ha fatto la musica, ognuno di noi si è raccontato, ecco, quindi ci pensavo molto, pensavo a noi, al nostro racconto di ogni venerdì alle 6:30. Sì. Niente, è stato bellissimo, bellissimo. Abbiamo parlato di tutto quello che uno fa, dei progetti futuri, sono nate nuove idee, quindi per chi vorrà ascoltare, se va in tempo con tutti, c'è il link Quindi che siamo riusciti a salvarlo, appesa radioimpegno.it. per le 3 poche ore. Allora lo metto poi nella registrazione del podcast come link, no? Sotto radioimpegno.it per ascoltare la trasmissione. Va bene, tu invece ti sei riposato, hai dormito? Beh, io ho dormito, sono andato a dormire, diciamo, ieri per me tardissimo, perché erano le ormai quasi le 11, visto che i miei ritmi sono molto cambiati rispetto a tanti anni fa. Perché? Perché ieri sera praticamente ho concluso il mio lancio il lancio del mio sito web per l'inglese, inglesevero.it. L'ho completato finalmente dopo tantissime, tantissime, tantissime ore di lavoro per capire che c'erano delle cose che non andavano, ovvero cliccavi una pagina, non si apriva, insomma, tutto ciò che doveva funzionare in qualche modo aveva sempre dei problemi. Ieri ho scoperto qual era il problema. Il problema, vuoi sapere qual era? Cioè, Qual era? incredibile, a volte secondo me è stato proprio un insegnamento fondamentale, ovvero io che sono della Vergine, che voglio fare sempre le cose fatte bene, precise, belle, super super appunto, eccetera eccetera, sono stato punito per questo, perché io devo uscire con il sito molto urgentemente perché la gente mi aspetta, e avevo messo, si chiama un plugin, praticamente si chiama un programma extra per fare le cose un po' più belle, no? Un po' più figo, diciamo, però come utilità non c'aveva nessuna utilità, era solo più bello, no? Bene, dopo giorni, non sto esagerando, dopo giorni di pazzia e di impazzimento per cercare di trovare soluzioni a vari problemi piccoli ma che non facevano funzionare il sito, ieri ho disinstallato questa applicazione e tutto è funzionato perfettamente. Mamma mia, incredibile. Wow. Sì, proprio come, è come se internet mi avesse voluto insegnare con il semplice vai online subito, con il complicato rischi, e anche perché io non ho un webmaster, non ho un tecnico che poi mi risolve questi problemi. Se faccio troppe cose e metto troppi programmi, troppe cose complicate insieme, non riesco a gestirle. Quindi mi ha insegnato, ieri ho imparato questa lezione nuovissima, bellissima, ovvero rimanere sul semplice e uscire. Poi dopo a migliorarsi si fa sempre in tempo, insomma, ecco, quello è stato l'insegnamento di ieri sera. Sei d'accordo? Sì, sono curiosa. Hai mai avuto, diciamo, esperienze del genere? Penso di sì, poi chissà se... È così che senza volere l'universo mi insegna qualcosa? Sì, il discorso del semplice, no? A volte uno si complica e rischi di aspettare mesi e mesi per fare una cosa, poi quando invece la fai in modo semplice la puoi fare subito. Come questo podcast che l'abbiamo iniziato così, senza preparazione tecnica, e già dal secondo podcast oggi siamo addirittura online live, no? Addirittura video, figurati, massimo. Sì, tante volte ho avuto questo insegnamento, rimanere semplice, invece mi complico sempre, non so, questo immaginario che non esiste, una cosa semplice la rendo complicatissima, quando in realtà è il semplice che va, che funziona, Eh la sì, semplicità. no, ma Sì, tante volte. perché poi a volte noi siamo sognatori, quindi è normale che sogniamo, no? Ci sta, nel senso non possiamo essere non sognatori, altrimenti non faremo quello che facciamo, però a volte questa cosa ci perde, anche con questo podcast abbiamo parlato fino a ieri, no? Tu venivi fuori con delle idee del futuro, no? E anch'io mi sono fatto trascinare sta cosa, e poi dopo alla fine dico: no, aspetta, aspetta, fermi tutti, torniamo qua, perché sennò rischiamo di, come si dice, di riempire la testa di nuove cose, di nuove idee, per poi dimenticarci venerdì 14 ottobre, che è oggi fondamentalmente. Beh, io non mi dimentico mai perché lavoro molto sul presente. Ho Esatto. imparato ad avere una visione al futuro, quello sì, per non lavorare a vuoto. Esatto, brava. Quindi l'idea è che siamo diversi, Sì. per fortuna non diciamo sempre No, sì. no, no, no, anzi, anzi, esatto. Ci mettiamo sempre alla prova io e te, giusto, questo è importante. Esatto. Bene. Ragazzi, sono le 6:40 del mattino e qui sull'Aurelia c'è il mondo. Ah. Si sono svegliati, adesso sembra che è sbattuto, Sì. c'è un'adrenalina incredibile, incredibile. A Come stavamo proposito, tu sei a Roma, quindi Roma di Aurelia adesso sei in giro per Roma. a Roma di Aurelia, sì. Mamma mia, a Roma già è giorno, già c'è. Ciao, buongiorno, No, invece io mi trovo in un paesino nelle Marche a Porto Recanati, e qua ancora dormono tutti fondamentalmente, come sono diverse le cose, no? Qua ci sono ancora gli uccellini che cantano. che Sì. bello, che bello, tutto bello, la vita è bella. Grazie a chi ti ascolta, questo lo volevo dire perché so che da quando hai messo il podcast abbiamo avuto una buona accoglienza, vero? Sì, ci sono state persone che hanno ascoltato la registrazione, quindi è stata una soddisfazione. Alcuni feedback positivi, quindi è stato bello. Senti, andiamo quindi, visto che siamo già a quasi un terzo del podcast, avevamo messo giù delle idee, no? Per confrontarci oggi, e Sì. volevamo parlare di questo raccontare storie, no? A me non lo so se ti va, ma di parlare dell'evento dove sei stata, no? Del TED Talk, da lì sei stata perché anche tu sei stata ispirata dal raccontare storie, no? Il fatto, Molto, molto. io credo che questo aneddoto del fatto che io e te lavoriamo in ambiti diversi, ognuno fondamentalmente per conto suo, e siamo arrivati tutti e due a capire che nei nostri lavori dobbiamo e vogliamo raccontare storie, credo che sia interessante, perché non ci siamo confrontati su questo, è venuto fuori così, no? Spontaneo, sì. Tu Sì. come te ne sei accorto? Beh, io mi sono accorto praticamente 2 anni, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo quando, forse 2 anni fa, durante l'evento di meditazione del mio maestro, mi avevano chiesto di seguire un evento il pomeriggio dove avremmo raccontato delle storie di 5 minuti, pensa, solo 5 minuti, no? E praticamente l'ispirazione era nata dal sito, dal famoso sito TED.com, che è il sito delle storie per eccellenza. E prendendo spunto da questo sito, dove in 5 minuti gli speaker riuscivano a raccontare storie veramente di impatto, importanti e di alta ispirazione e veramente toccare il cuore delle persone, era stato creato questo evento. Questo evento mi ha dato la spinta di raccontare una mia storia, ma in 5 minuti veramente la storia doveva essere molto breve, con un'introduzione, un corpo, una fine, quindi è stato un lavoro di preparazione molto intenso, per poi scoprire che questa storia, priva di insegnamento, priva di consigli da parte mia, priva di mettermi io sul trono dell'insegnante per parlare agli altri, ma semplicemente condividere una mia storia, ha avuto più impatto di tantissime altre cose che io faccio, perché io sono insegnante per natura e tutto ciò che insegno, di solito ho notato che con le storie passa molto meglio, molto più divertente, molto più. La persona viene molto più coinvolta e nessuno insegna niente a nessuno. La storia è semplicemente piacevole da ascoltare. E da lì è iniziato il mio cammino verso raccontare le storie che ho compreso e messo in pratica adesso con anche la mia pagina Facebook, un canta storie, perché poi il sogno è cantare anche alcune storie, perché la mia passione per la musica si deve immergere con questo mio piacere per raccontare le storie. E questa, insomma, è la mia storia di come ho deciso di raccontare le storie. E la tua? La mia è dopo un corso che ho fatto a Varsavia 2 anni fa, dove dovevamo scegliere un argomento per condividere con le persone come abbiamo superato quella difficoltà. Praticamente, scusate, ma in questa tangenziale si rischia di fare un incidente proprio brutto. Il bello della diretta a Allora, Roma, no? ma questa anche è una storia. sì, anche questa è la storia. Quindi a Varsavia ci hanno detto di scegliere un argomento, io ho scelto l'autostima. Sono sicura che alla base di ogni buon venditore, di ogni buon padre di famiglia, di ogni madre, di ogni professionista ci deve essere l'autostima. Un carissimo amico mi ha detto, va bene, ok, se vuoi condividere, trasmettere questa importanza di avere un'autostima alta, ma la gente non ti conosce, quindi fai un libro, racconta la tua storia. Ma Io mi sono ricordo, rimasta senza parole. lo sai che mi ricordo quel periodo che parlavi di questo libro che volevi scrivere, no? Sì, io le ho detto, ma io non so scrivere un libro, io non posso raccontare, invece lui mi ha detto tutti possiamo, tutti possiamo. E lì mi ha detto io dei passi da fare, li ho fatti, e dopo 3 mesi il libro era già in vendita. Il libro Quindi di cui si tengo a dire il volo dei colibri. è Il volo del colibrì, che non ci credeva nessuno, nemmeno io, che l'avresti scritto, ti ricordi? Sì, tanti mi scoraggiavano dicendo che a nessuno le avrebbe ispirato niente la mia storia, non avrebbero pagato mai un euro, a Esatto. nessuno mi interessa la storia. Invece, grazie alle presentazioni che abbiamo fatto, alle quali anche tu sei venuto qualche Sì. volta, Io sono venuto alla prima, no, non era la prima, però una presentazione sì, ufficiale, la la prima prima, questo. all'Istituto Italo. Quadrennio? No, sì. L'Istituto Italiano Latinoamericano, Istituto ecco. Italiano Latinoamericano, mi ricordo una presentazione strappalacrime, diciamo. E lì tutta la gente veniva e mi raccontava le sue storie. Poi ho studiato un po' sul branding ed era sempre tutto racconta storia, come nasce quel prodotto, come nasce quel servizio. Racconta la sua storia, perché la gente si innamora di storie. Storie, sì, fin da Quando sei piccoli. tornato dal Perù, raccontato la storia dei sciamani, Sì. e quindi hai scelto proprio quelle parole, racconta storie, mi hai colpito perché hai detto siamo connessi, è incredibile, Sì. siamo connessi. Stiamo facendo la stessa cosa, no? Che meraviglia. Io mi ricordo perché poi, secondo me, anche questa è un'altra bella storia, che io non ti ho creduto, no, non mi ricordo che ti ho bloccato, ti ho detto no, non vale niente, però mi ricordo che non avevo dato peso a questa cosa che facevi tu, perché dico, vabbè, ma questa sarà un'altra delle sue inventate, no? Delle sue idee, no? Tanto a noi ce ne vengono in mente 10 al giorno, figurati se ci crediamo, no? Poi mi hai chiesto di venire alla presentazione e io vuoi la fortuna che ero libero, vuoi la voglia di vedere una cosa che hai fatto, e comunque insomma siamo molto amici, quindi queste cose sono importanti. Sono venuto a Roma per la presentazione, ma sinceramente sono venuto e dico, boh, che sarà mai insomma questo libro, ma soprattutto io conoscendo te da anni. Sapevo che non eri proprio questo massimo, cioè tu, Paolina, per chi non la conosce, è piccolina, no? E quando l'ho conosciuta io era tutta indifesa, quindi un po' timida, un po' paurosa, eccetera, eccetera. Arrivo a Roma, la presentazione è gestita da lei con cameraman, fotografi, addetti alla stampa, ambasciatori e tutto, e Paolina che gestiva tutto dalla sua sedia dove parlava. In una maniera veramente impressionante, direi, cioè di un preciso, di un'autorità, di un'autorevolezza, ma allo stesso tempo, quando raccontava la sua storia, le persone veramente avevano le lacrime agli occhi, me compreso, e io mi guardavo intorno e dicevo: oh, questa è l'amica mia, oh, questa è Paolina, no? No, no, no, dico, Dopo non credo. questo libro tutti vogliono un guru, perché io ti Sì. chiamo guru da sempre per tutto quello che mi hai insegnato, e quindi tutti volevano un guru, ma un guru dove sta? Dove Dove sta? sta il Stefano? Sì, poi perché tu insomma, per scherzo, per davvero, mi hai sempre chiamato con questo nome, che ha fatto sempre, diciamo, ha attirato sempre l'attenzione di tutti, no? Il mio guru, no? Sì. Guarda, questo libro, secondo me, I nostri fidanzati e fidanzate si arrabbiavano, erano gelosi perché non capivano sì. questo nostro sentimento, che alla fine è una fratellanza, noi siamo fratelli, Sì, è un amore puro, incondizionale, abbiamo condiviso tanti momenti duri, abbiamo litigato, non ci siamo parlati per mesi. Poi ci siamo perdonati, tante cose belle, tante cose Diciamo belle. che per chi non crede nell'amicizia tra uomo e donna, no? Esatto. Questa conversazione che stiamo tenendo io e Paolina è la prova che invece l'amicizia tra uomo e donna non solo esiste, non solo può esistere, ma è anche magica, perché comunque la differenza poi, no, tra uomo e donna porta anche la ricchezza in questa amicizia, che è difficile perché comunque, come diceva Paolina, no, come dicevi tu Paolina, ci sono diversità. Fosse solo per il fatto che tu sei donna e io no. Certo, il nostro cervello e tutte le nostre cellule ragionano in modo diverso, Completamente diversi, sempre però ci in modo vogliamo diverso. bene, sì. Poi ormai anche le nostre famiglie sono amiche, siamo parenti ormai, non siamo più amici. Questa è una cosa E molto bella. poi quando sei andato in Perù, anche in Ecuador, lo stesso periodo, sembrava una storia incredibile, ma è Ah, vera, no? a questo punto abbiamo gli ultimi minuti, e a questo punto raccontiamo questa di storia. Che dici? Credo che sia un dovere, no? Perché poi le nostre vite si sono, come hai detto tu, ci siamo incontrati, poi abbandonati, poi rincontrati, alla fine stiamo sempre sullo stesso punto. Quanti anni era che non andavi in Ecuador, Paoli? Sette. Tu era 7 anni che non andavi in Ecuador, quindi non vai tutti gli anni. Io non sono stato mai in Perù, in Amazzonia, ma ho avuto questo desiderio di andare in Amazzonia per incontrare gli sciamani. E tu hai avuto questo desiderio, non improvviso, però ci dovevi andare, dovevi tornare a casa, no? Sì, avevo bisogno. E quindi tu hai deciso di partire praticamente perché volevi partire prima a gennaio, poi l'anno prima, poi l'anno dopo, non si capiva quando, alla fine sei partita a settembre. Sì. Quando sei partita di preciso? Sono partita il 18 agosto. Ah no, tu il 18 agosto sei partita e sei tornata? Il 18 Il settembre. 18 settembre, e sei stata praticamente nell'Amazzonia del Nord, diciamo più o meno, no? Esatto, mentre io sono partito il 1 settembre, sono tornato il 16 settembre, quindi comunque lo stesso periodo, e stavo nell'Amazzonia del Sud. E Paolina, mi ricordo che tu mi hai scritto un messaggio, mi hai detto: ma ti sembra una coincidenza che siamo finiti nell'Amazzonia nello stesso periodo? Non lo so se è una coincidenza, lascio a chi ascolta e lascio anche a noi il dubbio, no? Però Perché tu mi ricordi, abbiamo deciso di andare in Sud America anche negli stessi giorni. È incredibile. Poi quando siamo tornati tutti e due con idee chiare di raccontare storie. Sì, siamo tornati praticamente con 2 giorni di differenza. E poi sì, c'è stata questa, non so, come se l'Amazzonia ci avesse parlato e diciamo che io con gli sciamani, ma anche tu hai fatto parecchi lavori sia nell'Amazzonia, sia che proprio girando con la storia del tuo volo del colibrì, hai fatto le presentazioni. Chissà come mai siamo tornati tutti e due con lo stesso messaggio, ovvero basta insegnare, basta dare consigli, ma insegnate, raccontate storie, semplicemente, che la cosa più semplice di questo mondo è la cosa più bella che ci sia, perché chi le racconta c'ha il piacere e chi le ascolta in teoria anche. Quando io ho fatto il libro la gente mi diceva: ma un libro autobiografico? Ma sei giovanissima, di solito fanno l'autobiografia quando hanno 70, 80 anni. Da quando ho cominciato a apprezzare ogni momento di vita, in Esatto. realtà ogni cosa diventa una storia, ogni cosa diventa un racconto. Tutto, tutto è una storia, tutto è un racconto, tutto è un dare, condividere, ricevere, no? È bellissimo, bellissimo, a me piace tanto. Questo è l'ispirazione, Quindi potremmo questo veramente raccontare in una giornata tantissime cose. questo mi ha fatto pensare a una cosa importante, che non solo quindi raccontare storie mi sta dando, no? Parlo di me, ma anche a te, penso che vale con chiunque, non solo mi sta dando la possibilità di farmi conoscere o di esprimermi, visto che amo raccontare storie, ma hai detto bene, da quando racconto storie, vedo ogni parte della mia giornata come una storia, quindi in automatico la apprezzo anch'io di più. E quindi anche la mia giornata diventa più ricca, visto che sto imparando a raccontare storie. Questo è uno spunto bello, perché se uno dovesse dire: ma io non voglio raccontare storie, perché lo devo fare? Bene, anche raccontare le storie ai propri nipoti o ai propri amici comunque è uno stimolo per poi vivere storie, no? Sì, e poi adesso ascolto in modo ancora più attivo di quello che già faccio di solito le persone, e tutto è un raccontare storie. Le persone si alzano dalla mattina alla sera e raccontano storie. Storie. Raccontano storie al bar, al lavoro, tutto. Non so se tu ne sei accorto di questa cosa. Guarda, mi sono accorto un po', ma adesso che me lo dici, da oggi ci voglio fare più attenzione, perché in effetti fondamentalmente non abbiamo inventato nulla, no? Cioè non è una scoperta scientifica dell'ultimo millennio, ma in effetti è vero, se ci pensi bene, quando parli con le persone raccontano storie. Cosa hai fatto oggi? Come stai? Cioè, sono tutte storie, in effetti. Bellissimo, quindi tante volte facciamo tante cose in modo automatico e non gli diamo quel valore che veramente meriterebbero, no? Io racconto, ti racconto qualcosa, buttata là, non si arricchisce la giornata, invece se do valore anche a un raccontante come ho preso un caffè stamattina, Sì, a me aggiunge molto valore, consapevolezza alla vita mia. poi aggiunge valore a te, ma aggiunge valore a me, che mi fai notare una cosa che non avevo notato, così il prossimo caffè anche per me sarà diverso, no? È come, guarda, che poi è la cosa che da piccoli facevano i nonni, no? Quando ci raccontavano le storie. no? Sì. Che non ci, io mi ricordo i miei nonni non è che raccontavano storie fantascientifiche, raccontavano la storia del vicino di casa che era venuto e poi si era fatto male, oppure del raccolto che poi si era stati tutti a pranzo insieme. Storie semplici, ma mi ricordo che il nonno le raccontava con un trasporto meraviglioso e io l'ascoltavo con un interesse grandioso. Semplicemente me ne ero dimenticato di questa cosa del bambino che ascolta storie, no? Non solo che le racconta. Se Quindi guardiamo in modo attivo tutto, no? Gli uomini di successo, le grandi industrie, sì. le aziende di successo non fanno altro che raccontarsi. A Sì. questo è il mondo, raccontare come hanno fatto, come sono riusciti a fare le cose. È bellissimo, nella semplicità, Nella quindi ritornando alle tue parole, nella semplicità. C'è veramente tanto, c'è la grandezza, c'è la bellezza delle cose nella semplicità. Sì, anche perché veramente adesso prendo spunto dal tuo libro che è comunque la mia ispirazione per il mio libro, no? Eventualmente, perché il tuo libro non è tecnico, non è scritto in un italiano forbito e super letterario, è semplicemente la tua storia e credo che l'unica difficoltà che puoi aver incontrato, ed è stata veramente una mossa secondo me super coraggiosa, non è stata quella di scrivere o di pubblicare il libro, ma la vera grande difficoltà e l'unico scoglio che forse hai dovuto superare è quella di metterti a nudo davanti a tutti, no? Perché poi raccontare la mia storia significa rendere pubblica la mia storia, quindi quello è stato il tuo, secondo me, grande passo che mi ha ispirato comunque tantissimo perché tu hai raccontato veramente storie, alcune divertenti, alcune veramente che toccano proprio il cuore delle persone, no? Nemmeno io le sapevo alcune storie, è incredibile, cioè, eppure pensavo di conoscere. Nemmeno tua mamma le sapeva, sono storie, alcune delle storie del tuo libro sono, boh, mia mamma è rimasta impressionata, ma tutti quelli che l'hanno letto, quindi il coraggio anche di raccontare storie, no? A me sai chi ha ispirato la prima volta a raccontare storie? Mi ha ispirato Roberto Saviano, che parlava di storie di mafia, che non c'entrano niente con le storie che raccontiamo noi, però mi ha ispirato perché vedevo che lui, raccontando le sue storie, senza insegnare nulla, comunque mi faceva comprendere delle cose, anche proprio a livello di etica, eccetera, eccetera, che io non avevo mai accolto, ecco, avevo sempre respinto, no? Pensavo, ma tanto cosa ci faccio io contro la mafia, no? È inutile che sto a sentire i discorsi della mafia. Invece con le sue storie mi ha motivato ad essere una persona migliore perché lui raccontava che lui, facendo quello che lui sentiva di dover fare, lui combatteva, tra virgolette, la mafia con la sua creatività, ecco, in questo. Bello, sì. Te c'hai avuto per caso uno di questi, insomma, un'ispirazione particolare, oppure è una cosa nata piano piano? Questa delle storie, dico, è una cosa nata piano piano, graduale, per te? Non mi ricordo. Da quando ho scritto il mio libro, ho cominciato ad ascoltare le storie delle altre persone. Quindi Tante, ho ascoltato tante, tante, tante storie e lì ho capito che la mia storia non era mia, ma era nostra, perché ogni persona in una frase, in una parola che ha letto del mio libro si è ispirata, si è identificata, si è riconosciuta, quindi non è più la mia storia, è la nostra storia. è la Come nostra. lo è questo podcast, no? Esatto. Apparentemente è nostro, ma è di tutti. Sì, E sì, sì. quindi, ecco, nel raccontarci, mi sa che abbiamo sfiorato per qualche No, no, minuto. siamo praticamente precisi, siamo a 29 minuti, poco più, sono comunque le 7 e quindi credo che abbiamo iniziato con la semplicità e abbiamo concluso con la semplicità e con la semplicità ci salutiamo e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 6:30. Sì, Rimaniamo sempre alle 6:30, va bene? mi piace, lo sei Alle 6:30 per ora, perfetto, va benissimo. Ciao Paolina, buon rientro a casa a te e buon lavoro su internet a me. Grazie mille, grazie, ti voglio tantissimo bene. Anche io ti voglio bene. Grazie per il tempo di condividere con me. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e lasciate un commento, scriveteci per qualsiasi cosa. Bye bye. Arrivederci, buona giornata. Ciao. Ciao.